Sono detto la presenza che invece vuoi fare molto strano. Però detto proprio. Era con questi giri con noi. No, ma tra tipo. Ho tenuto a lontano il mio fastidio con questa posticata. Come se non lo sapesse che è. Cioè, quando fa allenamento.